meglio nel vento dal mare. No, sì, c'è così poco da dire e così tanto da fare. Adesso qui. Da fare.